Ciao a tutti, è il 12 ottobre, sono le 10:10, è il secondo podcast di Kicks. Finalmente siamo qua tutti e tre, è arrivato anche Francesco. Buonasera a tutti gli ascoltatori che ascolteranno di giorno, comunque fate voi un saluto da Kicks. Eccoci, vabbè, siamo qua, ovviamente c'è Marco. Ciao a tutti. E come avevamo annunciato, iniziamo le collaborazioni / interviste a persone più o meno conosciute del web italiano. Stasera c'è con noi Luca di Pandemia, adesso mi corregge subito, pandemia.info, che ha iniziato a collaborare con noi e che sarà un ospite più o meno fisso dei podcast. E Luca, se ci sei, batti un colpo. Ciao a tutti, l'accento è giusto, Pandemia. Ho avuto un attimo di defiance, visto che ieri sera m'hai corretto. Allora, argomenti di questa serata, beh, partiamo subito adesso fra un secondo con l'intervista di Luca, e se lo palleggeranno Marco e penso anche Francesco. Poi dopo Marco parlerà di cosa parli Marco? del moblogging, giusto? E ha provato anche qualche applicazione per voi. Intanto ne parla stasera, poi dopo su Kicks troverete pubblicati come al solito link e magari anche qualche tutorial se ci sarà il tempo. E poi chiudiamo con una mini panoramica sui nuovi motori di ricerca presentati durante la conferenza Web 2 che si è tenuta settimana scorsa in California, di cui abbiamo parlato oggi su Kicks, sul sito. E quindi direi di dare il via all'intervista di Luca, passo la palla a Marco e ci risentiamo dopo. Luca, allora da te ci piacerebbe avere un racconto del tuo blog in 100 secondi, vai. Ma Pandemia nasce ormai quasi 2 anni fa, a dicembre del 2002, all'inizio su Clarence, la piattaforma che un po' di tempo fa andava di moda dopo Splinter. Poi, ma il perché è nato Pandemia? Perché sono un curioso del web, e un curioso di comunicazione e di ambiente. Lavoro per il WWF, per cui mi piaceva dare un punto di vista ambientalista sul mondo che ci circonda attraverso il blog. Poi in realtà, quali sono, andando avanti, dimmi. Quali sono le notizie che tratti sul tuo blog e che tipo di utenti, visitatori hai o hai avuto modo di capire di avere? Ma come dicevo all'inizio, è partito il blog per parlare d'ambiente, poi si è allargato agli altri miei interessi che sono internet, i media in generale, i motori di ricerca, un po' tutta la tecnologia, per cui, ma i lettori sono cresciuti con il tempo, anche grazie al passaggio poi con il dominio personale pandemia.info, ospitato sul server di Blog Nation, il server di Gianluca Neri, e piano piano anche con qualche scoop extra tecnologico come una galleria fotografica scattata da me sulle veline di quest'anno, insomma gli accessi sono cresciuti e viaggiano sui 300-400 al giorno. Hai solo scattato quelle veline o hai fatto anche qualcos'altro? No, mi sono limitato a scattare e poi tra l'altro avevo fatto uno scatto della prima puntata dove Mammucari per inseguire una velina cadeva, sbatteva la testa, e poi sono stato segnalato da Agostina che mi ha portato quasi 2000 visite in un solo giorno. Carino, senti, io mi sono letto un po' velocemente, devo dire, il tuo blog. Io conosco poco i blog italiani, visto che mi interesso poco di blog, quelli che leggo sono esteri e riguardano i miei interessi, soprattutto di programmazione, eccetera, eccetera. quindi dicevo, mi sono letto un po' velocemente il tuo blog i giorni scorsi quando abbiamo iniziato a chiacchierare e poi a collaborare. E una domanda che penso si faranno un po' di ascoltatori che magari sono alle prime armi coi blog o hanno iniziato da un po' e non hanno molto successo. Come hai fatto a entrare nel giro dei blog che contano, almeno di qualità, a stringere amicizie, a farti ospitare? Poi dopo ti faccio la seconda parte della domanda. Ma è stato un po' una cosa graduale. Certo, nel mondo dei blog vige la legge del chi prima arriva, prima e meglio ha visibilità su internet, perché quando si è in pochi blog è più facile avere attenzione e quando ce ne sono migliaia diventa sempre più difficile. Però a parte questo, quindi l'esperienza e i 2 anni di blog che senz'altro mi hanno favorito, l'altra cosa è l'interazione e quindi commentare, scrivere ad altri blogger che seguono più o meno gli stessi interessi. Questo mi ha permesso di conoscerne diversi. Poi tra l'altro ho partecipato anche a Culture Digitali a novembre, che è stato uno dei convegni italiani sui blog di maggiore qualità. E allora, la seconda parte della domanda magari te la faccio dopo, me ne è venuta in mente un'altra, ma che differenze vedi, se ne vedi, maggiori tra i blog nostrani e quelli americani che vanno per la maggiore? I blog americani godono senz'altro di una base di navigatori e quindi di potenziali lettori più ampia, e bloggando da più tempo, diciamo, i blog sono quasi diventati una parte dei media tradizionali. Infatti si è visto anche con la convention dei democratici e dei repubblicani per le presidenziali, che alcuni blogger sono stati invitati come se fossero dei giornalisti a dare la propria opinione. Io credo che con un po' di tempo questa maturità della blogosfera avverrà anche in Italia. Già i primi segnali in questo senso ci sono stati, con attenzioni anche della stampa nazionale sui blog, con un quadro piuttosto veritiero e serio della blogosfera, che non è più considerata diari online di adolescenti, ma qualcosa di più, e credo questa consapevolezza crescerà ancora. Sì, giustissimo quello che dici, ovviamente la tua esperienza, infatti anche da Web2, visto che oggi, per riassumerlo un po' per Kix, mi sono macinato tutte le varie trascrizioni, uno dei temi più importanti era appunto come i blog ormai in America siano parte della cultura dei media istituzionali, e anzi sono anche a volte giudicati un po' pericolosi, perché tante volte correggono notizie, riprendono i giornali, denunciano notizie non vere pubblicate dai media istituzionali. Ma queste domande sono nate perché ho letto, appunto, ti ripeto distrattamente, quindi magari ce lo precisi un po' tu, una tua entry sul tuo blog di un po' di tempo fa in cui denunciavi un caso di plagio che poi so che ha avuto un po' di ripercussioni in giro. Ce la racconti? Ma in realtà di casi di plagio ultimamente nella blogosfera ne è emerso più di uno. Quello che ha fatto un po' più scalpore, e non so se è quello a cui ti riferisci tu, è quello del blog Contaminazioni, che credo il link dovrebbe essere contaminazioni.blogspot.com, che non è altro che il blog di una ragazza che aveva fatto una tesi proprio sui blog, e si è accorta dopo qualche mese che sul sito NetManager era uscito un ebook proprio sui blog che riprendeva ampi stralci della sua tesi senza che lei venisse citata. E nella blogosfera la notizia si è diffusa veramente in un lampo, tanto che nel giro di un paio di giorni, facendo una ricerca su Google con il nome della persona che aveva plagiato l'altra, venivano fuori tutti i commenti negativi dei blogger su di lei. Quindi anche in Italia il potere correttivo dei blog inizia a funzionare. Ti passo Francesco, che so che ha qualche domanda per te. Senti, Io volevo chiederti, ho sentito che citavi culture digitali. Io nei giorni scorsi ho letto un post da qualche parte a proposito di una presentazione che sarà fatta nei prossimi mesi, ma non ricordo se è un nuovo culture digitali, un nuovo episodio o un altro evento in cui parteciperanno invitati diversi blogger. Ti chiedevo se ti ricordi qual è o se niente, è scomparso perché ho provato a Sì. cercarlo ora, ma. Guarda, Culture Digitali è stato un evento organizzato insieme all'Università di Napoli nel giugno scorso e ha visto la partecipazione tra gli altri anche di Joe Ito e Loïc Lemaire, che sono due degli esponenti internazionali più famosi del mondo dei blogger, e entrambi sono legati poi alla società Six Apart che ha creato il software più usato nel mondo dei blog, che si chiama Movable Type. E, però prima di Culture Digitali ci sono stati altri raduni blogger più o meno culturali, più o meno ludici. Quello un po' più mondano e anche più partecipato è stato l'anno scorso la Blogfest organizzata a Milano da Gianluca Neri, il blogger italiano più noto, il cui blog è macchianera.net. E Gianluca ha già annunciato che ci sarà una seconda edizione di Blogfest, probabilmente a fine ottobre, inizio novembre, e sul suo blog che presto darà nuove informazioni. Ah, ti ringrazio. Penso che fosse un evento a Torino, lo cercherò domani con calma, magari lo segnalerò quando lo trovo nei commenti del file audio. L'evento, scusa se ti interrompo, l'evento di Torino è Web Days e dovrebbe essere intorno al 20 di ottobre e credo anche sul blog di Mantellini, manteblog.it, proprio tra gli ultimi post c'è il link all'iniziativa. Senti, invece saltando di palo in frasca, volevo chiederti, perché ricordo tra gli invitati c'era Giuseppe Granieri, se le tue impressioni d'uso del filter, che è già in linea da un po', ma alla fine neanche poi più di tanto, e penso che i commenti alla nuova versione siano magari rimasti un po' legati al giro dei più fedeli, magari tanta gente non è a conoscenza di cos'è, come funziona, come è migliorato rispetto a Sì, prima. quello che appunto Giuseppe Granieri ha chiamato WebFilter è la terza evoluzione del blog aggregator. Di fatto è un modo organizzato di leggere i blog italiani che vengono aggregati dagli stessi autori in base a varie categorie. E la terza edizione, appunto, WebFilter avrebbe lo scopo di rendere ancora più leggibili, categorizzabili i blog e in particolare i post, che sono l'unità di contenuto dei blog, in base all'argomento e alla persona che ne scrive, all'autorevolezza che questa ha in base al giudizio dato alla valutazione data dagli stessi blogger lettori, in modo da creare una sorta di aggregatore personalizzato. Personalmente non l'ho molto utilizzato, quindi non ti so dare un giudizio esaustivo. Di sicuro Giuseppe ha fatto un gran lavoro e credo soltanto con l'utilizzo e con il test da parte degli utenti il lavoro non potrà che migliorare. Sono credo già più di 500 le persone registrate, blogger e non all'aggregatore, quindi invito tutti a farci un giro. Sì, ti ringrazio. Anch'io invito chiunque abbia un weblog almeno a farsi un giro per avere la possibilità di segnalare il proprio posto, comunque di vedere un po' cosa la gente segnala, cosa la gente ritiene utile. È sempre una cosa interessante. Ci sono anche diverse funzioni, magari che non sono sfruttate ancora al meglio, ad esempio quelle simili a Blogory, Findory di cui si parlava oggi, che permettono di personalizzare il filter con più o meno per avere una selezione più o meno seriosa di articoli, di post scritti quel giorno o il giorno prima. Senti, invece, per cambiare discorso, tre giorni prima di conoscerti via mail, di entrare in contatto, stavo leggendo su mi sembra Wind of Change, un weblog americano di cultura digitale, di cambiamento sostenibile, una notizia che poi è riuscita lo stesso giorno anche su Boing Boing da un'altra prospettiva, ossia quella della febbre, delle febbri avicole in Asia, che riprendono un po' il pericolo del contagio della SARS e sono veramente magari diciamo un rischio abbastanza lontano, però molto molto pericoloso, e si faceva il termine proprio di pandemia pandemica, quindi sono per forza devo chiederti se sei a conoscenza di queste cose. Se infatti, come essendo tu nell'ambiente dei panda, magari queste notizie che riguardano la Cina puoi avere qualche scoop interessante. Guarda, mi dà l'occasione di appunto rivelare il perché ho chiamato il mio blog Pandemia. Pandemia è un termine che sta nel vocabolario italiano e che significa epidemia a livello globale. L'ho scelta per varie ragioni, uno perché ha assonanza con la parola panda, anche se non ha nessuna relazione con l'orsetto che vive appunto in Cina, e quindi richiamava un po' l'ambiente. E l'altra cosa era appunto il carattere di globalità che mi dava appunto l'ambizione di raggiungere masse in ogni parte del pianeta. Ma a parte questo, sono anche stato sempre un appassionato di virus, e quindi pandemia per me era familiare. Sulla febbre aviaria e la SARS, ma prima o poi capiterà una pandemia a livello globale di una malattia seria. C'è già stato un esempio all'inizio del secolo scorso, un'influenza catastrofica che ha ucciso più vittime della prima guerra mondiale, e non è detto che Bin Laden di turno si inventi un virus che faccia più danni di quanto ha fatto con le due torri gemelle. Spero che non succeda mai, ma l'ho detto. Nel frattempo volevo ricordare, intanto grazie a Luca, e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che potete lasciare i vostri commenti audio chiamando il numero 02-522-03-344. Dateci pure consigli e diteci cosa pensate di questo podcasting. Adesso volevo parlare velocemente di un tema che mi sta abbastanza a cuore, perché è da circa un anno che sto più o meno impazzendo per trovare una soluzione al post da telefono mobile, quindi quello che viene chiamato moblogging. Ho acquistato un telefono Symbian, con sistema operativo Symbian, l'anno scorso. Ho iniziato subito a smanettare per cercare di trovare una soluzione, con scarsi successi. Poi la notizia di qualche giorno fa, forse che mi è arrivata in ritardo, di Tim, che ha lanciato un servizio di blogging per telefoni mobili, mi ha fatto tornare la voglia di trovare una soluzione. Mi sono guardato un po' in giro e ho trovato diversi servizi che però non mi hanno più di tanto soddisfatto, in quanto permettono di inviare post dal proprio telefono mobile, però il post, ma soprattutto le immagini, rimangono sul server di chi eroga il servizio. Tra questi ci sono textamerica.com, che ha varie funzionalità, tra cui la possibilità di customizzare i template, di aggiungere link, siti favoriti, di postare le immagini via mail e diverse altre. E il peggiore di tutti è sicuramente Team.